ma allora. Cosa allora, Drago? Questa musichetta. Questa musichetta cosa? Mi dice che forse. Ma certo! Oggi. Venerdì. Oh yeah. Perdiamo tempo. Che venerdì. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa, un saluto da Drago e un saluto da Wunderwaffer. Wunderwaffer, la merendina svizzera che conquisterà il mondo, non so, io non so più cosa dire. Comunque è quello che, anzi, è quello che veramente dobbiamo cosa? Dire, perché cosa? Qui ci pagano loro, gli svizzeri. E allora? Non hanno ancora pagato, comunque è così. Vabbè. Cosa ridi? Hai guardato il conto ultimamente? No. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Ci si lamenta sempre delle domande imbarazzanti che i bambini rivolgono agli adulti, a volte, no? Tipo, succede, sì. Com'è che si fa a assumere cocaina? Vabbè, ma quel tipo non di domande. No, ma vabbè, allora, dicendo? Come nascono i bambini? Vabbè, questa è classica. È classica, sì. E soprattutto quando si entra nella sfera del sesso. Sì, è la sfera del sesso. È effettivamente molto imbarazzante per gli adulti quando ci sono i bambini nei dintorni. Sì, però io che mi autonomino seduta stante Codacons dei bambini. Ma cosa vuol dire? Anzi, baby Codacons. Baby Codacons. Codacons, prendo le difese dei più piccoli. Io prendo le difese dei più piccoli, degli indifesi, e ribalto la questione. Che cosa ribalti? Cosa vuol le dire? Domande imbarazzanti che gli adulti fanno ai bambini. Tipo? Sai, tipo, ma tu ce l'hai la fidanzatina? Ah, beh, sì, giusto. Sì. Anche un po' con. No, vabbè, questi sono quando me lo chiedevano, io impazzivo. Sì. Ce l'hai la fidanzatina? A parte, vabbè, il diminutivo che non capisco. Che non vuole una fidanzata, non una fidanzatina. Oppure, però, non so, altre domande. Cosa vuoi fare da grande? No? Ad esempio, oppure io dovevo anche sempre inventare qualcosa perché non sapevo proprio rispondere. Cosa vuoi fare da grande? Un imbarazzo pazzesco. Cosa inventavi? Non lo so, la prima roba, il postino, la prima cosa che mi veniva in mente. Capito? Il postino. Oppure, non so, ti chiedono, me lo dai un bacino? Sempre così un po', sì. A chiedertelo magari una vecchiaccia di 90 anni con la dentiera che fa paura e dice, sì, me lo dai un bacino? Però, ahimè, però è la madrina di tua prozia e non, sì, puoi, non puoi. Quella esimerti. Che dopo 6 o 7 anni che sei cresciuto, è ancora viva, la vedi e ti chiede, ti ricordi di me? Vabbè, quindi dai, passiamo pari. Gli adulti imbarazzano i bambini imbarazzano gli adulti, è tutto un imbarazzo generale. Succede quando si scambiano i ruoli. Cioè, se un adulto fa una cosa scema, tipo noi due, sì, invece di divertire il bambino, lo imbarazza. Ecco. Speriamo di divertire l'adulto, altro. Perché almeno. Se invece un bambino fa domande su cose da adulti, imbarazza gli adulti. Quindi, se fosse vero quello che dici, le domande imbarazzanti tra bambini e bambini e tra adulti e adulti non dovrebbero esistere, invece esistono. Molto meno. Ma insomma, cioè, tu pensa a quelle bambine che chiedono alle amiche perché a voi dicono sempre che belle bambine e a me che bei capelli che hai, quelle sono domande imbarazzanti. Non ho mica capito, vabbè, perché tra adulti, scusa, lei che chiede a lui, ma sei dentro? Ma Drago, non solo lui che risponde, lo chiedo io a te, sono dentro? Quelle sono domande imbarazzanti, troppo spinto secondo me. E ora, bambini, ricreazione! Ok, ragazzi, dichiaro aperta la riunione per eleggere il capo struttura della Negroni S.P.A. No, ma quale S.P.A.? Non siamo mica quotati in borsa noi! Loris, dobbiamo fare il consiglio di amministrazione. E facciamo? Dobbiamo eleggere chi sarà il capo! Il capo? Beh, non so, è necessario? Cioè, insomma, dovrei essere io, no? Non dico il capo, però il capo struttura, visto che sono qua da più tempo di voi. Ma dovrei essere io? È sopra un attimo. No, Alberto, siamo in democrazia, non è giusto. Dobbiamo mettere il voto. Voto? Ma che voto? Ma poi siamo in tre. Come si fa? Cioè, facciamo le elezioni in tre. Per il tre c'è tipo per acclamazione, no? No, ognuno vota un altro. Non può votare se stesso e vota un altro. Vabbè, vogliamo la democrazia? Sì. Vabbè, io credo nella democrazia, quindi non ho paura del risultato. Benissimo. Allora, ci servono 3 bigliettini di carta. Mi raccomando, non copiare, Alberto. Aspetta, allora. Allora, dai. Benissimo. Sì. Allora, mettiamo insieme. Alberto. Allora, ci sono. Sì. 2 voti per Gildo e 1 per Alberto, che poi. Per me nessuno. Vabbè. No, vabbè, evidentemente. E Io ovviamente non ho votato te, no? Perché insomma io, tu sei il rivale. Cioè ho votato Gildo perché noi eravamo le teste di serie, no? Come dire. Anche io ho fatto lo stesso ragionamento. Io non voto Alberto perché è già mio amico. Allora volevo fare mio amico Gildo e ho votato Gildo. Anch'io ho votato Gildo, infatti ha vinto Gildo. Ha vinto Gildo! Allora, il Gildo è il capo, no? Ha vinto Gildo! Io sono il vice capo, quindi tu sei, come dire, il sottoposto, nel senso buono, eh? Il braccio, diciamo, il braccio armato, ma la cosa importante, eh? Quindi, che dobbiamo fare adesso? Adesso, che ne so, chiedi a me, bisogna chiederlo al capo, no? Chiediamo Gildo. Gildo, allora. Il capo Gildo! Appunto, visto che sei il capo, devi dire... Cosa facciamo? Questa è la nostra, questa è la nostra prima attività di società Negroni, no? Cosa facciamo? Basta asciutta! Ha detto basta asciutta, Alberto, capito bene? E beh, allora? Allora bisogna fare la pasta asciutta, no? Ah, benissimo, allora visto che voi due siete i capi e non potete muovere le mani, io faccio il braccio e cucino io, quindi serve la spesa, serve il cibo. Eh no, servono i soldi per fare la spesa. Ho capito, Alberto, non è un problema. Prima che mi faccio dare gli euro da Gildo ci metterò mezza giornata. Hai voluto votare a lui invece che a me? Adesso sono fatti tuoi. A me non mi interessa più, io devo cucinare e cantare. Perché io sono napoletana e tu lo sai. Vabbè, allora io e Gildo andiamo a fare la spesa. No, aspetta un attimo. Prima di andare via, dobbiamo fare come tutte le grandi società e dobbiamo intonare insieme il nostro inno. Inno! Lino. Siete pronti? Fatto a tempo, Alberto! Un, due, tre, vai! I nomi sono tanti, milioni di milioni, si chiamerà Negroni, la nostra società. No, non si può fare le casse rotte, dai, Drago, su, senti come sale. Cosa sale? Come sale? Dai, dillo. Sale il venerdì. Va bene, siamo il venerdì, ormai stiamo anche quasi alla fine del pomeriggio lavorativo. È venerdì. E K non sta più nella pelle, però questo venerdì particolare per K, perché lui l'ha aspettato tutta la settimana. E quindi? Con grande entusiasmo. Frenesia del venerdì. Però, forse, ha voluto come... Cosa la tiri in lungo, Drago? Se facciamo come le radio commerciali, ogni parola e ogni pausa deve venire su con la musica, no? 5 euro, capito? Quindi, pensava che andavo... Che ti sei dimenticato che forse oggi devi andare dal dentista. E quindi un bel venerdì di mattina. Ma no! Scusami, eh. Ma venerdì, anche se vai dal dentista, anche per il dentista, anche lui lo sa, mentre ti trapa, anche lui sa che è venerdì. Anche lui c'ha la frenesia del venerdì. E come no? Poi si esce insieme col dentista. Sì, e poi ti trappa una male il dente. Sì, è venerdì. Happy hour. Venerdì, salutiamo e ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato con noi fino a venerdì. Pietro Lacorte, Laura Faggin, Guido Bertolotti, Salvatore Iorio, Alberto Caserini, Chiara Mignemi, K e Drago, Chiedo Asilo e Tradio24.it. Venerdì.